Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona domenica e buon pranzo a tutti gli italiani. Ebbene, oggi faremo una lunga cavalcata, partiremo dall'Arcigola arrivare fino a Terra Madre, un lunghissimo viaggio di 30 anni con un personaggio che è inutile che stia a dare le cariche, perché insomma ormai è riconosciuto. Buongiorno a Carlo Petrini. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono passati 30 anni, dico ai 30 anni partendo dall'Arcigola arrivando a Terra Madre, una lunga cavalcata, una lunghissima cavalcata che ha segnato molto l'Italia e sta segnando molto anche il mondo, questa tua cavalcata, Carlo. Sì, è un, cavalcata, è una vita attorno alle tematiche dell'alimentazione, del cibo, peraltro condivisa anche con te in tante parti di questi, specialmente degli anni pionieristici, i primi anni, mi ricordo un'Italia che aveva grandi personaggi, dobbiamo dire, Veronelli, Soldati, Gianni Brera, sono personaggi che hanno dato moltissimo alla gastronomia di questo paese e noi siamo cresciuti alla loro scuola. E gli anni 80, a metà degli anni 80, parlare di prodotto del territorio era dura in questo paese, perché pochi magari si accorgevano quello che stava succedendo vicino a casa. Tutti gridavano arriva la globalizzazione, ma non si accorgevano che probabilmente il vero frutto della globalizzazione erano i prodotti locali, perché in questa, diciamo, clima in cui tutto diventava globale, nasceva la resistenza. Sì, mi ricordo che in quegli anni parlare di prodotti locali ti guardavano con sufficienza, dice: ma dove vivete voi? Il futuro è l'industria alimentare, voi state promuovendo delle cose che non hanno storia, eccetera. E nei fatti poi la storia ha dato ragione a noi, nel senso che questi prodotti hanno una fascinazione tale che l'industria tenta di imitarli, in alcuni casi anche con vere e proprie invasioni di campo, e dobbiamo tutelare gli artigiani, le piccole produzioni territoriali, perché una produzione invasiva o eccessiva può anche snaturare la qualità di questi prodotti. Senti, ma ti faccio subito una provocazione, ma non saranno tante, e appunto di chi non si accorge. Bene, io sono rimasto molto colpito quando il ministro Martina un mese fa ha chiamato Roma 25 chef a difesa della cucina italiana. Bene, io sono rimasto perché avrei voluto in quella chiamata 25 tra agricoltori, casari, mugnai, panettieri, perché io credo che oggi ci sia un'invasione talmente grande dal punto di vista degli chef che si parla troppo di cucina italiana e si parla poco di prodotto italiano. Sono di una porta aperta, tu sai benissimo che non esiste chef al mondo se a monte non c'è un contadino, un pescatore, un artigiano del cibo. La sapienza di queste persone è preziosissima e oggi il palcoscenico l'hanno conquistato gli chef, peraltro maschi, mentre invece bisognerebbe avere una dimensione un po' più critica, nel senso che la grande gastronomia, cucina anche italiana, è stata fatta da milioni di donne che delle volte senza neanche ottenere grazie, va bene, con piccole cose hanno fatto i grandi piatti della nostra memoria, ecco. Allora, è vero, i riflettori sono accesi sugli chef, ma anche in questo settore ci sono chef che riconoscono l'importanza dei contadini, altri invece che fanno finta di niente. Senti, ma questa alleanza tra chiamiamola così, la terra, la cucina e gli chef, secondo te non potrebbe essere possibile, non potrebbe essere, diciamo, più stimolante anche per gli chef di conoscere più a fondo il prodotto e per i produttori conoscere molto più le esigenze della cucina? Questo è logico. Devo anche dire una cosa, che noi valutiamo sempre le cose nella contemporaneità. Se noi vediamo anche dal punto di vista storico, la grande cucina di tutti i tempi, anche in tempi antichi, medioevo eccetera, aveva sempre cuochi che esaltavano la materia prima, promuovevano la conoscenza della materia prima, quindi niente di nuovo sotto il sole. Dobbiamo semplicemente costantemente ricostruire questo processo che viene chiamato in termine brutto di filiera, ma che è esiziale, perché se noi non conosciamo, perché uno chef, se è onesto, riconosce che la materia prima di qualità lo pone già a metà dell'opera, se è onesto, e quindi l'altra metà sarà la sua arte, sarà la sua ingegnosità, questo è opportuno, ma rispettare chi dà la materia prima. Ecco, perché secondo te in questo paese si parla poco di agricoltura, sempre poco? Ma perché si è lavorato in questi anni a costruire il comparto agricolo come fosse un comparto prettamente economico, che so io. Quasi che parlare della siderurgia o del tessile, ci stava bene anche l'agricoltura, non è così. Ti spiego, l'agricoltura è, come dire, per sua natura complessa, multidisciplinare. Nell'agricoltura non c'è solo la produzione e la vendita della materia prima, c'è anche la stagionalità, c'è il rispetto dell'ambiente, del paesaggio, la storia, arrivo persino a dire la spiritualità. Tutta questa visione, che oggi direbbero i sociologi è una visione olistica, non può essere ridotta solo a un comparto economico. Se noi la riduciamo a un comparto economico, allora vince una visione, diciamo, sindacale dell'agricoltura. Bene, linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Regione Emilia-Romagna ti aspetta a Research to Business, 4-5 giugno, Bologna Fiere. Vi presenta Il Gastronauta, l'Italia del cibo. Terra mia, com'è bella la puntata. Terra mia, com'è bella. Riprendiamo questo cammino, questo lungo cammino che ha segnato molto l'Italia, ha segnato molto l'Italia non solo gastronomica, ma anche l'Italia agricola, ma anche l'Italia sociale. Ecco, volevo tornare sull'agricoltura. Abbiamo sentito Terra mia, quindi un richiamo diciamo molto forte verso la terra. Gli ultimi dati sull'agricoltura sono molto confortanti, perché danno un incremento sia della produzione, della produttività, sia dell'occupazione. Quindi questo è un fatto veramente inconsueto in questo paese. Sì, e dobbiamo anche saper leggere di che genere è. In genere sono giovani, si mettono in discussione, lavorano nel campo biologico prioritariamente, privilegiano la quantità e organizzano forme di vendita diretta che li rende più liberi rispetto alla grande distribuzione, che molte volte prende per il collo questi produttori. È una categoria di impiego interessantissimo. In genere sono ragazzi colti che hanno studiato e che la fanno come un'opzione proprio di vita. Nello stesso tempo hanno interesse ad avere un'economia sana, a essere radicati sul territorio. Penso che questo fenomeno, che è già avvenuto negli Stati Uniti, si implementerà ulteriormente nel nostro paese, perché qui c'è un savoir-faire secolare. e riprendere in mano questo savoir-faire, rivitalizzarlo, dargli il valore, perché ultimamente il cibo ha perso valorialità, è diventato più commodity, no? Infatti io vorrei anche dire che oggi sono felice perché ieri il Parlamento francese all'unanimità ha condannato lo spreco in campo alimentare, quindi costringendo la grande distribuzione a dare tutto il prodotto edibile che viene, invece di essere buttato via, darlo alle comunità di persone povere. Questo lo trovo una cosa molto intelligente. Ecco, questo in Italia è stato tentato con esperimenti molto locali, pensiamo a Bologna, con l'Università di Bologna, però ci sono degli impedimenti in Italia. Ma io mi chiedo, ma la grande distribuzione non avrebbe tutto l'interesse a fare questo? Perché innanzitutto si lascerebbe ad altri lo smaltimento, perché portando via i prodotti che devono smaltire sicuramente non avrebbe questo carico, l'IVA anche, potrebbe recuperare l'IVA, non capisco perché, perché ancora non esiste una legge in Italia, questo è il punto. Dice che è stato presentato un progetto di legge, però io parlo a uno come te che sai benissimo quanto noi insistiamo per l'orgoglio anche nazionale, no? E ogni tanto ci viene da imitare un po' Paolo Conte nel però obiettivamente era un'occasione che dovevamo noi essere i primi a fare questa legge, e ancora una volta i cugini ci hanno... Ma anche perché mi sembra che in questa carta di Milano si parli a proposito e a sproposito del recupero del cibo o di evitare i rifiuti. La questione è che gli elementi virtuosi, va bene, non spreco, la lotta contro la fame, vengono tutti affermati come principi, ma mai attuati con decreti, con leggi. Questo non va bene. Per esempio, tu sai benissimo quanti anni che noi lottiamo per la difesa del suolo agricolo in questo paese, che tra un po' non avremo più suolo agricolo a forza di cementificare. Questa legge non riesce a passare. Nel frattempo il Brandeburgo l'ha attuata. Altri stati incominciano a prenderla in seria considerazione e la attueranno brevemente. Noi che siamo in una situazione veramente a rischio, va bene, continuiamo a disinteressarsi. Pubblicamente facciamo delle affermazioni, nei fatti non siamo conseguenti. Ma sai, io sono un po' così stupefatto, perché si parla tanto di spreco e non di prevenzione allo spreco. Cioè, secondo me la lotta dovrebbe essere fatta a insegnare alla gente a fare la spesa, a non comprare oltre il necessario e a utilizzare tutto quello che c'è da utilizzare, il frigorifero, l'abbattitore, tutte queste cose che servono per non sprecare. Mentre si va... io ricordo su questo un po' quando ci fu tutto il discorso sull'aborto. Cioè, il problema era di non arrivare all'aborto, ma di prevenirlo. Ma certamente. E qui il discorso dello spreco è la stessa cosa, bisogna prevenirlo. Devo dire in tutta onestà che questa legge francese più della metà è dedicata all'educazione. Va bene? Noi ci focalizziamo sulle pene. A me, tra l'altro, non fa piacere le pene. Io preferirei di non arrivare all'elemento della coercizione. Ritengo che sia giusto ritenere un crimine buttare via il cibo. Nello stesso tempo sono d'accordo con te che il meccanismo deve essere educativo, preventivo, per creare quel disagio a buttare via la merce, che peraltro i nostri nonni non avevano. Certo. Quindi si tratta semplicemente di guardarsi indietro. Ma per tornare all'agricoltura, tu hai accennato all'agricoltura bio. Bene, io guardo spesso i giornali e devo dire che tanto spesso capitano degli scandali sul bio, sono sempre frequenti. Certamente. E io credo che fino a quando i controllori saranno pagati dai controllati, probabilmente, diciamo, che sarà un settore che non sarà regolato. Sì, è una questione di etica della produzione. Nello stesso tempo dobbiamo anche tutelare colui che compra, no? Etichette dovrebbero essere veritiere. Del resto ci sono, tu sai benissimo, in questo nostro paese delle leggi che sanciscono anche l'inutilità di denominazioni, no? Ad esempio questa legge del 1950 che permette di chiamare Carnaroli un riso che nella specie non è affatto Carnaroli. Ma se io metto per legge che so io che posso chiamare, che so io, dolcetto anche una Barbera o un Fraisa, tutti mi direbbero che sono pazzo. Nel riso questo è possibile. Allora vedi che ci sono dei potentati locali che piegano anche la legge alle loro esigenze commerciali. Ecco, torniamo un po' indietro, diciamo nel passato. Arriviamo allo slow food. Il passaggio da arcigola a slow food è stato un passaggio importante perché è diventato un qualcosa di internazionale e devo dire un passo molto decisivo verso discorsi che prima tu li chiamavi i pranzi dei crapuloni, quindi chiamavi in una maniera divertente per dire si può anche fare dei pranzi dei crapuloni, però distinguere il prodotto, arrivare all'origine del prodotto, però poi diciamo che il discorso è andato oltre, è andato anche diciamo a delle battaglie nazionali e internazionali. All'origine di questa nostra vicenda con te ho condiviso un'esperienza interessante nei primi anni 90. Si chiamava Milano Glosa, che tu adesso riprendi giustamente. Esattamente. Mi devi le royalty anche. Va bene. Il 50% però ti do. Il 50% delle perdite. Sì. Allora, senti, mi ricordo benissimo, va bene, che in quella sede, nella presentazione di Milano Glosa, io auspicai un sogno. Dico, il giorno in cui parlare di gastronomia in questo nostro paese avrà l'appeal che ha parlare della moda, va bene? Quel giorno lì saremmo felici. Adesso quel giorno lì è arrivato, addirittura è superato. Certo. Ecco. Però giustamente mi fai notare per una sola categoria. Allora io rinnovo quell'appello il giorno in cui parlare di agricoltura, di prodotti, avrà lo stesso appeal che oggi si ha nel parlare di cuochi, noi avremmo fatto un ulteriore passo avanti. Devo dire che in quegli anni là, quel tipo di affermazione era, come dire, parlare di fantapolitica. Era una bestemmia. Fantapolitica. Sì, esattamente. Adesso, fortunatamente, quindi bisogna sempre avere vedere le cose da un lato anche positive, non è tutto, ecco. Quindi da questo punto di vista io sono soddisfatto. Il successo poi di Slow Food a livello internazionale è un'altra cosa ancora. Poi arriviamo anche a quello. Ma poi volevo beh, ora dobbiamo interrompere perché se dobbiamo staccare, però volevo buttarti un'altra sasso in piccionaia, come si dice, che si parla troppo oggi di cibo. Secondo me il discorso si parla più di cibo che di moda. Questo può essere molto, ma molto pericoloso. E poi ne parleremo di questo. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. So che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. Ma qui, adesso, questi momenti non sono storie. Questo sta succedendo. Scegliete il libro. Mettete tra una pagina e l'altra le scene del film e sottolineate i passaggi chiave con le canzoni della colonna sonora. Tutto questo è Audiogrammi. Ogni domenica alle 20:15 vi raccontiamo una storia tratta da un libro e trasportata dal cinema alla radio. Audiogrammi. Domenica alle 20:15 su Radio 24. Anche in podcast su radio24.it. Il gastronauta. L'Italia del cibo. Ombre de muri, muri de mainè. Donde ne veni, dove le canè. Tenci tu du vali, na semo strani. E a netta na punto, cotelo agu. E a monta la, zeugeres todi. jau lese u se ga feto ni ne shurtimo da uma pesci vai o se da odria a fontana di cun vita cade pria e andale e andale e andaio. Un tempo di cibo se ne parlava troppo poco, oggi forse se ne parla troppo. Continuiamo a parlarne di questo argomento con Carlo Petrini, fondatore di Arcigola, di Slow Food e ora di Terra Madre. Il tuo messaggio era: passeremo la moda, e ora l'abbiamo passata come, ma forse anche mediaticamente. Sì, non vorrei che si ricreasse una specie di bolla che sollecita attese che magari non corrispondono all'economia. Cioè, tutta questa voglia di mettersi in gioco, oltretutto in alcuni casi proprio senza la professionalità dovuta nell'aprire nuovi locali eccetera eccetera, poi magari non corrisponde alle attese del mercato o allo sviluppo del mercato, e rischieranno grandi coloro che fanno questi tipi di investimenti. Nello stesso tempo bisogna dire una cosa, che la produzione del cibo ha una grande contraddizione, che in estrema sintesi è questa: ci sono grandi società con grandi capitali che producono cibo di bassa qualità, no? Bassa qualità, cibo massivo, chiamiamolo così, per gente povera, e guadagnano molto. Ci sono invece artigiani straordinari che producono una qualità alimentare straordinaria per gente ricca e non guadagnano niente. Il nodo è quello lì. Il diritto al cibo buono è un diritto di tutti. E credimi, mangiare una pasta buona non significa spendere molto di più. Non significa spendere molto di più. Ridurre lo spreco e comprare cosa giusta, essere un po' più morigerati anche nel mangiare, che ci fa tutta salute, e comprare le cose giuste non vuol dire essere tacciati, perché sarà capitato anche a te, a me di più, perché io ho fatto una scelta anche di tipo più sociale, ecco. Però ce l'ha capitato anche a te, è comodo, voi parlate del cibo buono perché avete i soldi, voi siete ricchi, potete parlare del cibo buono, però la gente è povera, cioè. Quando dicono quello, non bisogna accettare quel tipo di provocazione. Io sostengo che il diritto al cibo buono è un diritto di tutti, e che la qualità, va bene, pagata a un prezzo giusto, è accessibile a tutti. Se noi riduciamo anche sprechi, costi, mille questioni. Quindi questo è un settore molto aperto, specialmente in questo momento per sottoscritto, mi tocchi il nervo scoperto. Qui c'è un nodo cruciale, che è quello di far arrivare il cibo degli artigiani al mercato. Esatto. Questo è un nodo che c'è sempre stato, che continua ad esserci, perché sicuramente ci sono migliaia di produttori straordinari, però che non riescono ad arrivare al consumatore. È per questo che noi guardiamo con molta attenzione la crescita di mercati locali, di contadini gestiti non da commercianti, da contadini. Quello che in America chiamano community supporter, cioè cittadini che investono con i contadini, prepagando sostanzialmente ed avendo poi forme di comunicazione diretta, quindi in questo senso qui ti do solo un dato che non te lo sto prospettando come un'ipotesi di socialismo, no, negli Stati Uniti d'America, mi ricordo 1997, io personalmente ho aperto il primo mercato farmer market di Chicago. Nello stesso anno anche a New Orleans. In tutti gli Stati Uniti i mercati contadini in quegli anni lì, fine anni 90, saranno stati 100-110, va bene? A Union Square, tu lo sai, c'era questa. oggi sono più di 12.000 e sono anche ad Harlem, sono nei quartieri ispanici. Cosa significa questo? Che è mutato, c'è stata una rivoluzione silente dove i contadini portano direttamente il cibo nei quartieri e vendono direttamente. Guarda che da 100 a 12.000 è una potenza distributiva nel paese che ha inventato il supermercato. Noi invece, che avevamo i mercati contadini nel Medioevo, siamo pieni di grandi supermercati e i contadini guadagnano niente. Io su questo, sul discorso chilometro zero, secondo me vorrei fare un distinguo, che è giusto che il contadino porti, però non si deve chiudere, cioè nel senso che tutto diventi chilometro zero, perché a quel punto se diventa filosofia diffusa vuol dire che a questo punto, visto che noi viviamo di export... No, ma poi dopo, obiettivamente, è efficace come slogan, ma non l'ho mai sostenuto, perché il chilometro zero cosa significa? Che non bevo caffè, che il cioccolato vado a prenderlo dove? In Venezuela? No, e non solo, ma anche la parte trasformata, che è orgoglio per l'Italia e che deve andare all'estero, questo da che mondo? Il mondo è sempre successo, quindi ci mancherebbe ancora. Purtroppo, caro Carlo, c'è molti che invece l'hanno preso in maniera ideologica al chilometro zero, e allora addirittura ci sono dei ristoranti che alcune regioni hanno varato appunto delle liste in cui ci sono i ristoranti chilometro zero. Mi chiedo come fa un ristorante a fare cucina a chilometro zero? La potrà fare una tanto, ma non potrà farlo tutti i giorni. Ma glielo vai a spiegare tu ai miei produttori di Barolo che dobbiamo commercelo tutte tra Asti e Alba e Bra. Soprattutto il vino viene colpito da chilometro zero. Non c'è niente di peggio che esasperare dei messaggi positivi e farli diventare negativi. Certo. Senti, torniamo al discorso internazionale, arriviamo allo slow, appunto, lo slow food, a quel famoso discorso che abbiamo visto è stato superato, quindi il cibo ha superato la moda con esagerazioni, perché come dicevamo prima, tra di noi il 30% dei giovani ragazzi oggi negli istituti alberghieri sceglie di fare lo chef e non il cuoco. Questo è il grande problema, sì, perché visto i modelli mediatici, pensa a televisione, a macchine, belle donne, libri, in realtà poi la realtà è tutt'altro. Quindi diciamo che è un modello mediatico che sta distorcendo un po' la realtà. Però sicuramente il cibo ormai è diventato, cioè tutti ne parlano, e quindi è il momento probabilmente di fare educazione e di fare sana informazione. Sì, noi abbiamo bisogno proprio di implementare un settore informativo. Vedi, io ho tanta nostalgia di quella televisione di Soldati, di Veronelli, che nella loro semplicità sviluppavano messaggi molto semplici. Detto questo, non c'è ombra di dubbio che bisogna rafforzare un elemento culturale. È per questo che nel 2004, tu lo sai, il nostro impegno più forte è stata la costituzione dell'Università di Scienze Gastronomiche, che è una piccola comunità perché sono 600 studenti, ma però vengono da 70 paesi del mondo. Quindi questa forma di interscambio per noi è esiziale. Aggiungo che laddove hanno voluto scimmiottare questo concetto della gastronomia senza una visione olistica, sono poi falliti. Quindi la gastronomia non è solo ricettistica, non è solo stelle, non è solo valutazioni da critici, è anche conoscenza della biologia, della genetica, dell'antropologia, dell'economia politica. Questa visione olistica rende i futuri gastronomi dei soggetti che sapranno rispondere a queste istanze che tu mi stai dicendo. Beh, sai benissimo che negli istituti alberghieri, purtroppo in Italia, molti istituti alberghieri, non tutti, sono carenti sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista teorico. E questo è il grande problema del 30% che... Ma molti, molti sono ancora fermi a sala e cucina. Certo. Altri invece vedo che fanno degli sforzi. Certo. Io... auspicherei una sorta di liceo gastronomico, ma con questa visione qui, quindi con questa visione di cambiare le materie. In fondo sono nati per cosa? Sono nati per essere di supporto all'albergazione, va bene? Tu sai che la maggior parte poi non fa quel lavoro lì. Assolutamente, appunto. Ecco, allora cosa significa? Che è una scuola parcheggio? Ma infatti molti vanno, si iscrivono a quella scuola magari perché i genitori non sanno dove farli, dove iscriverli, esatto. Quindi li iscrivono in quella scuola. Esatto. Purtroppo questa se invece gli dessimo altre più informazioni, magari dopo quella scuola lì possono anche fare altri mestieri validissimi nel campo del commercio, nel campo dell'informazione, nel campo anche della politica agronomica. Ecco, vedrei bene la nascita dei licei gastronomici, però questo paese, santo cielo. Beh, arriviamo, non dico ai giorni nostri, ma sì, arriviamo ai giorni nostri. Arriviamo un po'. Tu come te l'eri immaginato l'Expo? Ma l'Expo avevo pensato e sono ancora convinto potesse essere un luogo di scambio, di incontro, anche di elaborazione e di ausilio per nuove pratiche produttive, per nuove pratiche distributive. Purtroppo la caratteristica determinante di questa organizzazione privilegia il rapporto con gli stati, va bene? Poi a un certo punto privilegia anche coloro che mettono dei soldi, gli investimenti. E in mancanza di un governo di questa straordinaria iniziativa, governo inteso governo dell'Expo, in grado di con pugno deciso di portare avanti queste istanze, questo non c'è stato, ormai è evidente, cioè, sono cambiati interlocutori politici, organizzativi, di tutto e di più, noi ci troviamo a fare un'Expo classica, va bene? Quindi non è l'Expo che io immaginavo. Nello stesso tempo un contadino, nel momento in cui dovevamo scegliere se essere presenti o no, un contadino marocchino mi ha detto: guarda Carlo, la sedia vuota non ha mai pagato. Dite il vostro messaggio, ed è quello che noi facciamo con molta umiltà, ma che in qualche modo ci ha portato a scegliere di fare Terra Madre Giovani. Bene, ora ne parleremo lì nella regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta la Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia, ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia, di Sebastiano Barisoni, da lunedì a venerdì alle 17, solo su Radio 24. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Terra mia, com'è bella la Puntaga. Terra mia, com'è bella la Guardia. Questa bella canzone ci porta immediatamente nel cuore del tema di Terra Madre. Ne parliamo con Carlo Petrini. Tu durante l'Expo stai pensando di fare una grande manifestazione appunto con Terra Madre. Sì, nel 2004 questa intuizione di una rete di agricoltori, pescatori, artigiani, nomadi, no? Pastori, che partì proprio nel 2004 con una prima assemblea di 4.000 contadini provenienti da 90 paesi del mondo. Ogni due anni questo appuntamento si rinnova e nel 2014 le delegazioni arrivavano da 170 paesi del mondo, cioè la rete che è una nuova formula organizzativa, perché non è un partito, non è un sindacato, è una rete che attorno a ideali comuni poi ognuno realizza come può nelle realtà. Questa rete si è rafforzata. L'idea che è partita all'inizio di quest'anno è fare un'edizione straordinaria di Terra Madre a Milano con i giovani che saranno il futuro del nostro cibo, quindi contadini, pescatori, magari anche attivisti, gente che si è impegnata nella distribuzione, nell'educazione, eccetera, eccetera. E puntiamo ad avere più di 150 delegazioni dei singoli paesi, quindi questa sarà dal 3 al 6 ottobre l'esplicitazione costruttiva, va bene, che Slow Food vuol portare all'interno di questa straordinaria città che è Milano e che si appresta a chiudere la grande esposizione universale. Ecco, Terra Madre è nata da pochi anni ma si è sviluppata molto velocemente, quindi vuol dire che questo messaggio di unione tra paesi diversi, ma tra lavoratori, coltivatori, pescatori, come dici tu, cioè tanti produttori di cibo hanno in comune, quindi hanno gli stessi problemi, credo, in tutto il mondo. Quello che dicevi tu dell'occupazione delle terre è un altro grosso problema, non solo in Italia, di cui prima hai fatto menzione della mancanza di una legislazione, ma è in tutto il mondo questo problema, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Assolutamente, tra l'altro è un argomento che sono convinto che sta a cuore anche a te, nel senso che una certa schizofrenia noi gastronomi l'abbiamo sempre vissuta, che è questa: noi parliamo di cose di piacere in paesi dove c'è la pancia piena, pensando che in paesi dove c'è malnutrizione oppure anche molte difficoltà lì ci sia una sorta di sofferenza. Non è vero. Per dirti, un paese povero, piglia, che so io, paese africano, c'ha una gastronomia meravigliosa e nel momento in cui la realizza sono più felici di noi. Quindi la felicità gastronomica non si realizza solo nei tre stelle, nelle grandi cucine, nei grandi ristoranti, nelle osterie del nostro cuore, ma si può realizzare anche in un villaggio, in una festa di paese, eccetera eccetera. Questo messaggio, guarda che sembra facile, ma noi non l'avevamo introiettato. Questo è il grande insegnamento che ha dato a me Carlo Petrini, Terra Madre. Vedere che in Brasile, nella foresta amazzonica, c'è una sorta di gioiosità gastronomica con la loro cucina autoctona, per me è stata una rivelazione. Tu hai usato introiettata, pensa che immediatamente mi è venuto in mente Sotto il sole giaguaro di Italo Calvino, quando dice che per conoscere un paese bisogna mangiare e introiettare quel cibo per capire quel paese. Non c'è dubbio, e aggiungo condividere il pasto è una delle esperienze più importanti dal punto di vista dell'empatia che può suscitare questo atto, quindi è importante. Bene, abbiamo parlato appunto prima del discorso dell'Expo. Io mi immaginavo di trovare, ad esempio, nel padiglione del Brasile, senza fare critica a quel governo perché ha deciso così, di trovare questo grande fenomeno della biodiversità di quel paese. Invece mi sono trovato appunto con una scala con cui tutti vogliono salire e nessuno guarda sotto, e che ci sono degli esempi, ma sono pochissimi rispetto allo sterminato fatto di biodiversità che è in quel paese. Ecco, per tornare al discorso della biodiversità e di quei paesi, probabilmente nei prossimi anni, dopo aver vissuto dall'invasione spagnola di Ferran Adrià, dall'invasione del nord di Noma, io credo che il futuro della cucina internazionale sarà proprio questo, arriverà dai paesi dell'America Latina. Sì, cioè, c'è un fenomeno incredibile che si chiama Gaston Acurio, che pensa è uno chef proprio classico, però si è preso sulle sue spalle la costruzione di 3 scuole per insegnare ai figli dei contadini a cucinare, 3 scuole non pagate dallo Stato, pagate da lui, dalla sua fondazione, valorizza i produttori andini. Io sono stato con lui a Lima, ma è un fenomeno incredibile. Ti posso dire una cosa: il giorno che Gastón Acurio decide di presentarsi alle elezioni come presidente del Perù, non vince, stravince. Questo cosa significa? Che la forza mediatica e politica di un approccio giusto, non autoreferenziale, con la gastronomia, quindi con le masse contadine, in quel caso lì possiamo dire masse contadine perché è ancora la maggioranza, con l'educazione, con la scuola, investendo di tasca propria, è un fenomeno di liberazione. E la cucina latinoamericana oggi, anche nei suoi fenomeni, diciamo, più alti, è comunque una cucina di liberazione. Beh, stavamo pensando che appunto per arrivare alla biodiversità, cioè questo è un paese che è ricco, ricchissimo di biodiversità, però credo che ancora non si capisca questa realtà, cioè un prodotto biodiverso non viene trattato con il rispetto che dovrebbe avere, non dovrebbe, come dovrebbe venire coltivato. Vedo che su questo non c'è molta attenzione ancora. Sì, il percorso è lungo, però ricordati 10 anni fa, ecco, questo è il, e ti posso dire, forse io perché vivo in un contesto particolare, essere dentro quell'università mi dà una carica che vedo che molti giovani stanno entrando in questa dimensione, e l'appuntamento di ottobre è proprio quello. L'ausilio che io chiedo alla città di Milano è fare in modo che questo evento, come dire, venga anche vissuto dai milanesi come un'opportunità di scambio interculturale. Beh, sicuramente, visto che arriveranno 140 delegazioni da tutto il mondo, ci sarà un momento anche di scambio. Sarà molto interessante vedere tante realtà così completamente diverse, e poi appunto in questo momento che si parla sempre di cibo sarà un momento di capire anche cosa sta succedendo nel resto del mondo, perché noi siamo magari presi esclusivamente dai nostri prodotti, siamo dalla nostra cucina, e difficilmente andiamo oltre, anche se ultimamente le cucine che arrivano da fuori, con ormai diciamo anche professionisti che si sono installati, cominciano ad essere apprezzate. Sì, poi dopo nella storia della cucina, come ben sai, il meticciato è sempre esistito, dal momento in cui l'Italia era il crocevia delle spezie, il meticciato già nel Medioevo era una delle forme espressive importanti. Bene, ci avviciniamo al fine, mi dispiace perché avremmo potuto continuare ancora per tanto tempo. So che vuoi dare, credo, un'indicazione. Sì, noi abbiamo bisogno sostanzialmente di un ausilio per questo evento, che è l'ospitalità. Chiedo ai milanesi che mi ascoltano se possono ospitare per un giorno, per due giorni, un contadino, una contadina di questa assise, e rivolgendosi appunto a questo sito terramadregiovani@slowfood.it, mettendo a disposizione l'ospitalità, oppure sostenendo l'iniziativa con questa piattaforma che si chiama We Feed the Planet. Noi alimentiamo il mondo, la traduzione è questa, non noi, loro, quelli che arrivano. Bene, grazie a Carlo Petrini, buona domenica a tutti i radioascoltatori, appuntamento alla prossima settimana.